Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8 e 20 minuti, eccoci caro Oscar. È l'11 ottobre, caro sì? Alessandro. E che succede? Eh no, volevo dirti che non è lunedì né venerdì, ah, quindi insomma, puoi dire che l'11 ottobre. Poi vedo che tu e Meazza salvate i vostri conti. Eh sì, fatemi almeno, il fischio. Beh, almeno pensiamo ai nostri. Se vuoi aggregarti. No, no, io proprio dicevo: ditemi, se il sole serve a salvare i miei conti personali, magari allora le compro due copie invece che una. Va bene. Tutte le mattine una, ma se così due. Allora, il santo che a cui il PD deve rivolgersi, perché così la smettiamo di fare quattro pagine al giorno. Sugli organi, il giorno prima degli organi del PD, il giorno degli organi del PD, francamente voglio dire, è una secondo me è una cinica strategia per occupare le informazioni italiane, tanto poi alla fine non succede mai niente, con cose pregnanti però. Pregnante, appunto, sì, vabbè, lo dico con grande rispetto ma anche con una certa stufia, come si dice a Torino. Comunque oggi è San Giovanni XXIII, che in effetti forse è il vostro santo, per così dire, molto buono, ma che ogni tanto diceva sì, date una carezza ai bambini, ma poi ammetteva che lui da piccolo aveva preso tanti scappellotti. Secondo me PD, ecco, avrebbe bisogno. Però io voglio citare anche un santo che è molto caro ad Alba, gli Albesi, in Piemonte. Sì. Dove ero sabato? Ecco, e c'è una notizia che riguarda. Bravo, c'è una notizia fondamentale che voi avete perso nella stessa stampa di Agno Milan di oggi. Io l'ho vista. L'avete persa questa della notizia. Fattura, quelli. No, fattura. L'Unione Europea, sì, la tanto criticata Unione Europea, invece questa volta la dice giusta e dice l'Italia, la trifola non è un bene di lusso, come dice l'Italia, ovviamente per tenere più alta l'IVA, questo è, il che significa che naturalmente è in nero il più della trifola, cioè del tartufo, è un prodotto agricolo spontaneo, come il fungo, che sia certo. Un fungo ipogeo invece che sopra, è un fungo, e quindi l'IVA deve scendere, ha accesso ai fondi europei, eccetera eccetera, grande notizia per noi che amiamo. E allora, siccome oggi è anche un santo, Sant'Eufredo, che è molto venerato ad Alba, io ne approfittavo per un per dire questa cosa, mi sembra giusto. Quindi, nero, anche se il tartufo è bianco, ecco, in ma caso. Infatti, beh, come vedi, però, quello più pregiato, quello è nero fiscalmente, cioè il bianco è quello più buono. Interrogati, caro mio, su questo. Mi interrogo. Allora, 800 24 00 24 è come sempre la password per entrare in comunicazione con noi, caro Oscar. Qui c'è stata il dibattito del PD. Non lo so, non ti ha appassionato? No, mi ha appassionato perché aveva letto Bersani, tutte le premesse, lo sferragliare della macchina della scissione. Io non tifo per la scissione, dico però che è un po' singolare annunciare alla stampa interviste ferrigne in cui si esprimono giudizi, in cui quello che mi sembra abbastanza evidente che c'è un odio antropologico oramai reciproco tra i critici molto elevato, incomunicabilità quanto poi meno. Si arriva in direzione e onore a Cooperlo che almeno interviene, parla eccetera, da tutti gli altri, cioè Speranza, Bersani, Zoggia, eccetera, Stumpo, eccetera eccetera, io non di ci cui oggi sappiamo niente. Tutto a pagina 3 del esatto, Corriere della Sera, carità, cosa ne pensa non Stumpo, votano, spariscono, eccetera eccetera, dopodiché vedano un po' loro, perché non so, vuoi sentire Cooperlo, perché Cooperlo ti ha colpito il fatto che ha detto io il 5 dicembre se non cambiano le cose mi dimetto. Parlamento, la mossa di Cooperlo, che tanto non verrebbero accettate le dimissioni, lo sappiamo anche noi, facciamo cioè, vero, tutti questo mestiere, cosa, quindi sappiamo che è tutta una Cooper, mi dispiace per Gianni qui. Cooper, che direbbe naturalmente che lui si batterebbe perché venga associato, però non sarebbero accettati, quindi Cooper l'ha detto. E per quanto mi riguarda, se un accordo vero sulle cose che si sono dette qui non ci dovesse essere, io il 4 dicembre non potrò votare quella riforma che per 3 volte ho votato nell'aula della Camera, ma devi essere sereno, perché se a quella scelta tu mi spingerai sarà mia cura nello stesso istante comunicare alla Presidente della Camera le mie dimissioni da deputato. devi stare sereno, ha messo anche questa dicitura. Se tu classica, mi spingerai, quindi certo, sei tu che mi fai dimettere. Sereno, quindi, sì. Vabbè, non so quanto gli italiani siano. Tu hai capito che il senso, poi ieri c'era uno scambio di Twitter con alcuni colleghi, cioè Mattia Feltri e così via, che a volte colgono in maniera surreale, perché bisogna capirle, sono stufi, stanno lì per 48 ore e allora devono cogliere ogni cosa, che diceva in parole povere: la minoranza del PD accusa la maggioranza del PD di una legge elettorale che non gli piace più, perché darebbe tutto il potere a una minoranza, perché l'eccesso è pieno di maggioranza e che la minoranza della maggioranza comanda, cioè il paradosso dei paradossi, capisci? Io sono andato a scartabellarmi un po' dei libri, e la stessa accusa che al congresso del Partito Socialdemocratico Russo nel 1903 la minoranza bolscevica faceva alla maggioranza menscevica. Vedi che la storia si ripete, la alla fine, si ripete. A sinistra è sempre la stessa cosa. Tu dici, allora, intanto invece c'è un po' di preoccupazione, o si racconta anche sui giornali, di questa par condicio che arriva e del ruolo soprattutto della televisione in questa campagna elettorale, dove molti sono indecisi. Abbiamo visto che anche in America moltissimi decidono in base ai dibattiti presidenziali, forse anche in Italia molti decidono, gli indecisi, soprattutto in base alle comparsate in TV dei politici. Ho i miei dubbi, però. I tuoi dubbi? Beh, però, insomma, sta di fatto che ci sono tante polemiche. Per esempio, l'ultima uscita di Renzi, che è andata da Giletti, ha suscitato molte polemiche. Molte polemiche, perché molti dalla destra a sinistra dicono che ci vorrebbe un contraddittorio. Però se un'intervista al Presidente del Consiglio... Ecco, anche a me sembra che l'argomento che stai citando abbia un suo rilievo. Facciamo il Presidente del Consiglio ombra? Stesso minutaggio? Però vogliamo parlare soprattutto di quello che succede nel mondo Rai, visto che abbiamo un membro del Consiglio di amministrazione della Rai. Si tratta di Franco Siddi. Buongiorno Siddi. Tra l'altro è stato a lungo anche segretario nazionale del sindacato dei giornalisti, insomma, e quindi conosce perfettamente la materia. Allora Siddi, intanto ci dobbiamo scandalizzare se vediamo Renzi intervistato, come dire, one to one da Giletti? Ci vorrebbe il contraddittorio oppure no? Io credo che ci si scandalizza solo in queste circostanze. Renzi è stato invocato da quasi tutte le televisioni italiane in queste settimane, perché Renzi è un protagonista della comunicazione oltre che della politica, quindi io non mi scandalizzerei da quel punto di vista. Dobbiamo assicurare invece che, ecco, tutte le voci ci siano in televisione in più o meno alla stessa maniera. Bisogna da cominciare a dire, lo dicevate voi, soprattutto Giannino negli anni scorsi. Insomma, non si può mettere il silenziatore a chi parla, poi c'è chi ascolta e decide. Adesso stiamo entrati in una fase politica diversa e entriamo in par condicio, e quindi da domenica prossima, ecco, un'esclusiva in cui uno spazio dell'arena dedicato solo a Renzi, o domani a Bersani, o dopodomani a Quagliarello, probabilmente non sarà possibile, ci vorrà il contraddittorio. Ah, interessante, cioè perché diciamo per ora la par condicio non era scattata per i programmi live. Domenica no, quindi domenica ancora prossima quello non spazio, sare... quello spazio, ecco, bisognerebbe anche discutere, tra l'altro, ragionare, al di là di Renzi, quello spazio che sul piano organizzativo, sul piano produttivo, sul piano della proposta comunicativa, è fatto così, prevede un ospite solo finora, no? Ecco, quindi certo. Come farlo? Deve essere cambiato. Ecco, vediamo il regolamento. Se il regolamento della par condicio dice, presumibile che questo accada, che qualora ci sia un ospite ci deve essere immediatamente un altro, già nella stessa trasmissione in contraddittorio, si farà così, si rispetterà la regola. Sì. Io penso che in passato si calcolava il perimetro, diciamo così, della partecipazione nell'arco di un ciclo di trasmissioni. Oggi invece si vive tutto giorno per giorno, minuto per minuto. Sì. Si vuole tutti la stessa cosa allo stesso istante. Mi sa che questa par condicio allora ha creato più danni che altro. Questa è il mio, questa no, è la mia personale. Questa era la vostra vecchia tesi. Io ero della tesi che in una situazione squilibrata servisse la par condicio, però poi alla fine sta diventando un po' una recita, se ci pensate bene. A me dispiace che sia così, perché dipende dal ruolo politico che uno svolge. Esatto. Oggi Brunetta è il più accanito sostenitore della par condicio, ed è il più accanito sostenitore della cancellazione. Bisogna ricordare, no, lei poi questo, nel merito, lei parliamo questo, di quello che si vuole. Lei in questo ha assolutamente ragione. Riuscisse. Prego? No, dico, lei in questo ha assolutamente ragione, cioè i politici quando si alternano tra maggioranza e opposizione cambiano radicalmente. Cioè il sogno è di vedere che finalmente sul merito abbiamo una linea, che l'applichiamo. Detto questo, per esempio, io anche lì, a prescindere dal colore politico del governo pro tempore, come giornalista, anche se devo sottostare in questo caso al mio editore che mi dice oh attenzione, minutaggio ai secondi perché sì, sennò arriva la multa, faccio notare sì, ma dal punto di vista logico giornalistico un presidente del consiglio è un'autorità istituzionale tra le più elevate e dal mio punto di vista giornalistico pensare di doverlo equilibrare con un minutaggio perché lui promuove il referendum dall'altra parte è un controsenso giornalistico, mentre è chiaro che chi rappresenta i partiti impegnati nella campagna referendaria, ok, lo capisco, per un presidente del consiglio abbiamo tre soggetti, abbiamo i comitati in questo caso del sì e del no, abbiamo dall'altra parte il governo il quale parla di tutta l'attività istituzionale, parla anche di referendum. D'ora in poi bisognerà conteggiare, esatto, all'interno del ragionamento che riguarda l'istituzionale lo specifico del referendum e metterlo in conto. E vabbè, la RAI si sta attrezzando anche a questa, anzi, già attrezzata. In tutto questo, sì, di questa sera Renzi sarà politics, giusto per non saltare una trasmissione. No, visto. Beh, ha saltato la RAI, finora l'aveva disertata, anzi, se c'era un problema era questo, o no? Tutti dicevano: ah, è uno scandalo, Renzi non va alla RAI, va dai privati, va alla 7. E il povero Semprini non fa audience perché Renzi va di là. Adesso vediamo. Adesso vediamo, vediamo stasera. A proposito, ma c'è un caso, tra virgolette, politics sulla questione, per esempio, di avere assunto una persona dall'esterno, invece, secondo i giudici, raccogliendo un ricorso dell'Usigrai, c'è un allora, problema come consiglio di amministrazione? Mi chiamate un po' in causa in una maniera, però io parlo, amo parlare franco con il mio nome. Allora, io personalmente ero dell'avviso che non servisse Semprini per fare una nuova trasmissione. Tutta quella assunzione formalmente è legittima, il giudice non l'ha dichiarata illegittima. Vero. Ha dichiarato che c'è stato un combattimento sindacale, cioè è stata seguita una procedura non strettamente legata alle indicazioni contrattuali. Mi dispiace che questo sia accaduto in Rai, un'azienda come Rai non deve accadere che si facciano errori di procedura di questo genere. Dopodiché Semprini però è un professionista, non è che è un passante, è un giornalista, fa il suo mestiere, è stato chiamato a sperimentare un format nuovo, finora ha avuto qualche c'è qualche difficoltà nella risposta, evidentemente ci vuole anche del tempo. Magari l'avesse fatto l'interno sarebbe stato più semplice prendere atto di ciò che accade, sì. Però Semprini non è che è un pessimo, sa fare il suo mestiere e adesso la sua trasmissione, come è stato annunciato, avrà una caratterizzazione soprattutto dedicata al referendum, sarà una tribuna al referendum sostanzialmente. E nel mestiere del batti e ribatti lui ha dato grande prova finora, ma anche sul resto non è che ha fatto una cosa scorretta, ha fatto cose corrette. No, per carità, il problema è che lo stesso direttore Bignardi ha dovuto ammettere che insomma poi si vede, cioè insomma sono rimasti un po' scottati i vertici della Rai Nazionale. Io volevo fare una domanda. Quando si cambia non si è mai paziente. Lei pensa che se fosse stato un'altra l'indirizzo politico di questo governo e la riforma l'avesse di questa RAI, cui il vertice è nominato direttamente dall'emanazione governativa, a differenza di quanto è stato per decenni, e le prime 22 nomine fossero state in quel caso, se l'avesse fatto un governo di destra, 21 su 22 bocciate dall'ANAC, pensa che la cosa andrebbe così liscia come sta andando a questa gestione? Qui è una domanda volutamente provocatoria. E poi, ma io questo non lo so, bisognerebbe non lo so fare, posso dire solo però anche qui una cosa, sì. quelle assunzioni bocciate dall'ANAC sono assunzioni sulle quali l'ANAC ha rilevato anche lì appunto difetti di procedura. Certo, questo può fare l'ANAC. In un momento di passaggio tra una legge e un'altra, tra un codice di autoregolamentazione e un altro, probabilmente il codice andava dettagliato meglio, infatti adesso già è più chiaro che... Capisco, sceglie la posizione aziendalista, però un'altra cosa... Diciamo così, un amministratore ha il dovere di tutelare il patrimonio della RAI, è un grande patrimonio, non vorrei che per questa roba si innescasse l'ennesimo discorso la RAI non serve. La RAI è una... No, ma non è così, la RAI non serve, la Rai, ecco, se... scusa, la RAI serve, stiamo parlando del rispetto delle regole. Ma no. Però non mi può tacitare dicendo che i lavoratori e le famiglie dei lavoratori della RAI e per questo si fanno le nomine ignorando le procedure. La legge ha dato il potere di una serie di nomine esclusivo al direttore generale. che per cambiare ha ritenuto, facendo delle valutazioni in alcuni casi comparate, nella gran parte dei casi comparate con altre situazioni, di dover ricorrere all'esterno. Alcune figure all'interno oggettivamente credo non ci fossero, cioè nessuno dice che, cioè, si è creata una direzione digital per esempio che sta andando benissimo, ci sono cose che vanno, altre no, io, anch'io personalmente penso che forse si poteva guardare un po' di più all'interno, si poteva fare un po' diversamente. Non ho mancato di dirlo, da qui però a dire che sono state fatte cose illegittime che e non l'ha ce detto ne Cantone. Però sì, di... l'ha detto Cantone. No, Cantone, non Cantone ha detto ci sono dei vizi di procedura. Sì, di lei siede nel CDA della RAI e molti italiani si chiedono come mai non si riesca a rispettare questo tetto di 240.000 euro, perché ci sono persone della RAI, il direttore generale, il direttore di rete, alcuni anche Daria Vignardi stessa ha detto prendo 300.000 euro, lo faccio per spirito di servizio. Perché non si riesce ad applicare questo tetto? È così complicato? Io penso che adesso si applicherà perché c'è una legge. E voglio ricordare che la CDA ci ha detto di no. No, vi sbagliate. Come ci sbagliamo? E ci ha ricordato che l'emissione di obbligazione è consente. No, un momento, sono cose differenti. Allora, sono cose differenti. L'emissione di obbligazione è stata fatta per mettere in sicurezza il debito della RAI. Ok, ma consente, meno, ma consente le eccezioni. Quella norma consentiva le eccezioni. Adesso il Parlamento, appena una settimana fa, ha approvato una norma senza eccezioni. Esatto. Ecco, dico a voi. A seguito di questa, mi faccia dire, venerdì e sabato i vertici aziendali hanno protestato perché l'Istat ha dichiarato di considerare la RAI all'interno del perimetro pubblico e presidente e direttore generale a quel punto hanno detto non è la nostra interpretazione, perché questo infatti significherebbe applicare anche ai limiti massimi. No, secondo me qui c'è una deviazione dell'interpretazione, scusatemi, da parte vostra. Non è così, protesto anch'io, dovrebbero bastare tutti i cittadini italiani per l'inclusione della RAI nell'elenco Istat. Considerare la RAI uguale a un ufficio pubblico significa intendere una SPA. Lei dice che la RAI è privata? Peraltro un'azienda quotata in borsa. È privata la RAI? La RAI è un'azienda pubblica, ma è un'azienda che è in pancia, una società per azioni, che deve agire sul mercato anche, oltre che... Cioè, i migliori artisti, i migliori, dove li scegli? Dove li trovi? Ma non si può volere il canone in bolletta pubblico e poi dire io sono privato. Il servizio pubblico è pubblico. La RAI deve essere azienda anche di moderazione stipendiale, certo. Ed è in grado di farlo. Purtroppo non l'ha fatto per tempo, non l'ha potuto fare per tempo. Tutte le cose si chiedono in 5 minuti in questo paese. La RAI, magari con un mese di ritardo secondo i politici, però lo stesso sapeva che stava facendo la sua autoregolamentazione interna. Però cosa ci ha preparato un'ottima autoregolamentazione interna, 240 più piccoli, più una serie di indennizi a scalare per le figure di top management, per quelle che non trovi altrove se non a quel livello. E poi c'è un grande problema: se i 240 si applicheranno a tutto, come potrebbe apparire una prima lettura della legge, anche agli artisti, ecco, noi favoriremo solo i privati perché non li troviamo. Giusto che noi non paghiamo più milionati a certi artisti. Sono d'accordo con voi, basta con le milionate a certi artisti e rendiamo pubblici anche le milionate che diamo agli artisti. Sì, la legge su questo non è chiara. Lei ci stava dicendo una cosa sui 240.000 euro. La RAI lo ha fatto subito, immediatamente, degli stipendi oltre 200.000 euro. Ecco, ci obbligano pure a tirare. Io sono d'accordo, so che questo sarà un problema di mercato, mi dicono gli specialisti. Ma come l'ha fatto non subito? Me ne frega niente, basta. Prendiamo pubblici anche gli stipendi. No, però lei, Siddi, ha detto che ci stava dicendo una cosa sui 240.000 euro, cioè verrà applicato, ma da quando? Applicherà la legge. Ma da quando? Il direttore già è stato chiaro, l'applicherà secca. Però voi mi dovete dire perché il direttore generale doveva prendere 240.000 euro e il direttore di un qualsiasi altro ufficio che non ha le responsabilità che ha il direttore generale prenderà ugualmente 240. Perché è una legge, un po' su questo criterio, abbiate pazienza. È una legge, cioè, la legge si applicherà, la rispetteremo, però vedrete che molte cose non funzioneranno. Ma ci può dire? Allora bisognerà separare le attività di puro servizio pubblico da quelle commerciali. No, per carità, io voglio distinguere tra il servizio pubblico con il canone. Voglio distinguere e separare le attività di servizio pubblico da quelle commerciali, altrimenti, in nome di quelle commerciali, il servizio pubblico si copre di soldi. Questo è il punto. Ma sapete quanto? Allora, io non è che devo difendere a tutti i costi le cose. Io sono perché come voi non voglio sprecare i soldi. Voglio che alcune cose che sono ancora spreco non ci siano più, che certe consulenze saltino, per esempio, se ben chiaro. Va bene, Siddi, però in conclusione ci può dire da qua, io non ho ancora capito da quando si applicherà questo tetto di 240.000. Allora, la legge, non appena la legge entra in vigore si applicherà in automatico. C'era già pronto comunque un progetto della stessa RAI, a 240 più un massimo di 50 milioni, massimo 50 per alcuni top manager in relazione al rischio, alla funzione che svolgono, alla competenza, al valore, diciamo così, della funzione. 8-9 persone in tutto. Quindi già oggi comunque che significa che non si applicherà, che 600 rotti. Non c'era nessuno, c'erano solo pochissime persone oltre i 240. Cioè, ci saranno comunque ancora delle però eccezioni. Rischiamo di togliere, di lasciare sul mercato, di lasciare ad altri, di prendersi i migliori, e la Rai non potrebbe averlo. Un CFO di gran... Allora, la Rai aveva un eccellente CFO con Dubitosi, va bene? Sì. È andato via, un po' per ragioni sue, ma un po' perché le davano il quadruplo nel privato. No, perché ma è il migliore d'Italia, e a 240 questo... uno così non lo trovi. Ma questo è un po'... Ma è un po' per questo è un bisogna distinguere l'attività e il resto privatizzarla. Allora, intanto la ringraziamo, Franco Siddi, membro del CDA della Rai. Dobbiamo andare in pubblicità, Oscar, anche perché poi dobbiamo, per la recuperare, visto ieri abbiamo parlato con Carlo Fusaro che è per il sì la questione del Senato, oggi avremo Luca Antonini per il no al referendum sulla modifica che riguarda il Senato. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar. Eccoci qua, siamo tornati. C'è Franco da Napoli che ci chiama. Buongiorno Franco. Buongiorno, volevo fare una notazione su un rilievo che ha fatto Giannino a proposito degli interventi che sta facendo il presidente Renzi in televisione. Sì. E volevo chiedergli, ma lui interviene come presidente del Consiglio e quindi rappresentante un po' di tutta Italia, o interviene come segretario del PD e in più come rappresentante della maggioranza del PD? Io questo volevo soltanto capire, come diciamo così, come cittadino ma no, normale. Ma è chiaro che come presidente è una brillante domanda che coglie però, il paradosso, però io dal giornalista come faccio a dimenticarmi che ha un rilievo istituzionale come Presidente del Consiglio, essendo anche, come giustamente dice lei, segretario del partito di maggioranza, anzi segretario della maggioranza del partito di maggioranza, oltre che Presidente del Consiglio, però non posso far finta di dimenticarmi. Ma anche perché intervistare Renzi vuol dire chiedergli poi della stabilità, delle pensioni, del rapporti con l'Unione Europea, dei migranti, della politica estera, è Presidente del Consiglio, insomma, guida il governo. Comunque, queste nature di problematiche mal si prestano a un minutaggio in termini di secondi, non so come dire. A proposito di minutaggi, allora dobbiamo dedicare 8 minuti come ieri al fronte, in questo caso del no. Abbiamo il professor Luca Antonini, insegna diritto costituzionale a Padova. Buongiorno professor Antonini, eccoci. Buongiorno qua. A lei e agli ascoltatori. Visto che ieri abbiamo parlato di sì, e soprattutto per la questione del Senato, ci concentriamo sul nuovo Senato. Ieri il professor Fusaro. E però diciamo anche ai nostri ascoltatori che ne pensi del federalismo, che il professor Antonini è uno dei pochissimi in Italia che ci ha provato davvero tecnicamente, non politicamente, alla testa per anni della Commissione per il federalismo, che scrutinava tutte le leggi, eccetera, eccetera, dicendo come avete preso questo indirizzo, cercate di realizzarlo, poi alla fine invece la cosa non si è realizzata. Allora, ieri il professor Fusaro ci ha detto che con il sì avremmo un Senato sicuramente più snello nel numero dei membri, visto che sono 100 e non 320 come adesso, non pagati perché sono i consiglieri regionali oppure i sindaci. E quindi a questo tipo di argomentazione lei, professor Antonini, che cosa non va in questo snellimento? C'è qualcosa anche che non va nel fatto che siano meno e meno pagati? Sì, ci sono due cose che non vanno e che rendono questo Senato un pasticcio. Beh, la prima è che vengono ridotte il numero dei senatori, ma non quello dei deputati. Allora, in questo modo si squilibria il Parlamento in seduta comune, perché praticamente chi vincerà attraverso l'Italia con le elezioni della Camera domina tutto e quindi dominerà per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica, che rischia di finire in mano alla maggioranza che ha vinto le elezioni con l'Italia. Come quindi il Presidente della Repubblica non rappresenterebbe più l'unità della nazione, ma rappresenterebbe il partito che ha vinto le elezioni. Secondo aspetto è che questo Senato, come l'hanno definito alcuni miei colleghi, assomiglia a una suocera inascoltata che dà consigli non richiesti. Credo che sia una metafora molto significativa, perché questo Senato praticamente può dare solo pareri, quindi è sostanzialmente inutile. È sostanzialmente inutile e non compensa la fortissima ricentralizzazione di funzioni che viene attuata. Su alcune, su alcune leggi dà dei pareri sui quali la Camera deve esprimersi, su, su altre leggi invece mantiene delle competenze. Ecco, il problema è che poche sono le leggi su cui mantiene le competenze e non sono le leggi essenziali per far funzionare il sistema decentrato. Rimane competente per le leggi costituzionali al punto che se un domani si volesse cambiare questa Costituzione, dato che ci sono sistemi elettorali diversi fra Camera e Senato, si entra in un impasse in cui penso che questa Costituzione non si possa più cambiare una volta che sia stata approvata. Ma soprattutto i pareri che dà, dico, sono pareri superabili per la fase normale del procedimento, sono pareri superabili dalla maggioranza assoluta della Camera, che con l'Italicum per definizione c'è sempre. Allora, detto questo, dico, il sistema non funziona a fronte del fortissimo, della fortissima ricentralizzazione di funzioni. Noi avevamo bisogno di correggere la riforma del titolo quinto. Qui invece non c'è una correzione, c'è proprio un'inversione di tendenza, si ritorna a un centralismo spinto che secondo me potrà avere effetti devastanti, devastanti sulle regioni che funzionano. Per far capire agli ascoltatori, ci fa qualche esempio di materia che secondo lei è un errore ricentralizzare rispetto all'elenco che c'è nel nuovo testo della Costituzione? No, non è tanto la materia quanto la clausola di supremazia, ecco, che esatto, viene introdotta. La clausola di supremazia permetterebbe, ad esempio, le faccio l'esempio, di ricentralizzare tutta la sanità. Allora, se noi ricentralizziamo la sanità in Italia, devastiamo i modelli che funzionano, che sono delle eccellenze mondiali. Quella del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Lombardia e delle Marche, sono 5 regioni in cui la sanità ha raggiunto un livello straordinariamente efficace in rapporto al qualità e prezzo. Se noi ricentralizziamo la materia, come già per esempio fa la legge Madia per la nomina dei dirigenti sanitari, è una follia totale, perché questi sistemi funzionano in base alla differenziazione. Se io ricentralizzo, crea un si omologheranno verso il basso come qualità verso e come il basso. Cioè non è che trasformiamo la Calabria come il Veneto, ma trasformiamo il Veneto come la Calabria. Ma poi c'è anche il problema dei costi. Oltre del costo dell'inefficienza, ci sarà il costo del personale, perché le regioni in questi anni, in 15 anni di titolo quinto, hanno aumentato le loro dotazioni di personale perché evidentemente avevano più funzioni. Se io adesso faccio marcia indietro e riporto indietro il pendolo di 50 anni, sto personale dove finisce? Ma quindi, teniamo conto dei costi che crea un'operazione del genere, paradossalmente, altro che riduzione degli stipendi appunto, dei senatori. Infatti, professor Antonini, paradossalmente lei dice che magari la riduzione degli stipendi dei senatori sarebbe compensata da questo tipo di aumento di costi, per cui alla fine nel saldo non è una riforma che ci fa impattare negativamente. Ci fa rimettere. Ci fa addirittura costare di più. Perché, ma molto di più. E qui stiamo parlando di sulla sanità, per esempio, ci mettiamo 100 miliardi di euro, capisci? Altro che 50 milioni degli stipendi dei senatori, cioè l'effetto è molto più grave e molto più pesante da questo punto di vista. L'altro aspetto, scusi, che non viene toccato, sono le regioni speciali. Ecco, e le cause che portarono alla specialità sono di 60 anni fa. Esatto. Non si può stabilizzare dicendo che non si toccano, al punto che se per esempio viene prevista l'indennità dei consiglieri regionali, questa non si applica all'Assemblea regionale siciliana, dove le indennità sono le più alte del mondo. Batto le mani. Questo mi sembra un assurdo istituzionale. C'è l'aspetto poi dell'immunità parlamentare, che è un aspetto che magari è secondario, è toccato meno, ma molti ascoltatori ovviamente puntano su questo. E cioè, si rischia, secondo lei, di dare l'immunità da senatori a consiglieri regionali e sindaci anche per le loro funzioni da sindaci e consiglieri regionali, oppure avranno un'immunità solo per gli atti da senatori? Ma guardi, questo mi sembra un problema, uno dei problemi proprio, come dice lei, minori rispetto alla, credo che potranno rimanere la distinzione fra quello che fai nell'attività da senatore e quello che fai nell'attività da sindaco o consigliere. Il problema semmai è un altro, che il sindaco di una grande città che è obbligato a stare 3 giorni a Roma perché è obbligato, questa riforma lo obbliga a partecipare alle commissioni eccetera, non riesce più a fare il sindaco, quindi mi sembra che questo Senato proprio non funzioni. C'era un'esigenza di maggiore stabilità e di razionalizzazione del titolo quinto. La Merkel governa 12 anni, da noi governi durano 12 mesi, a questo bisognava rispondere. Però la risposta che dà questa riforma, secondo me, sono, e uso la metafora che usa Chesterton per indicare le ideologie, verità impazzite. e le verità impazzite sono le cose più pericolose in un sistema, perché questo appunto trasforma esigenze di riforma corrette in rimedi completamente sballati. Quindi lei dice la riforma può essere giusta nelle intenzioni, ma è pasticciata e sbagliata per quel che riguarda la riforma del Senato. Noi professore la ringraziamo, qua Oscar ci dobbiamo fermare perché 30 secondi abbiamo finito, grazie al professor Luca Antonini. Alla prossima. Ovviamente professor, da lunedì prossimo continueremo, prenderemo altri aspetti. O due insieme, uno e uno per o equilibrare. Uno e uno, esatto. Perché vediamo. Sennò magari anche una formula che non stona questa uno e uno. Anche secondo me, poi non so se magari siamo esposti alla sanzione, sai che l'azienda ci trattiene sulla retribuzione. Mannaggia. No, l'azienda è chiara, l'azienda è spietata. È spietata. Anche perché il sole deve stare in equilibrio. Non ridere, dai, c'è poco da ridere. Sull'equilibrio del sole. C'è poco da ridere. Scusa, chiudo la parentesi. Dai, andiamo a bere un caffè, un buon caffè, con Peter Vescapè in regia, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. No, lasciamo. Adesso però devo anch'io diventare follower delle foto. Le sì, foto Peter. Foto Peter. Come Peter Pan, non è difficile. Foto come foto in italiano. Foto Peter. Seguitelo su Twitter. Ciao.